No. Quality B. Se ti confondi, prima o poi sprofondi, è meglio che ti affidi sempre i tuoi riflessi pronti. Ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, sai bisogna battersi in questo mondo. Quante le esperienze fatte sulla mia pelle, tante cicatrici ma non sono solo quelle ad adornare il mio corpo, guarda un po' più sotto, la terra trema e non te ne sei accorto l'otto. Senza sapere un perché, ma so che tanto in me necessità c'è. Non c'è un re, neanche un servitore, ma l'importante è stare al centro dell'attenzione. Ore su ore sopporto questa situazione, con fatica e con tanto sudore. Calo di pressione o fattore di questa edizione, sai che il suo elemento provoca una reazione. Se ti confondi, prima o poi sprofondi. Se ti confondi, prima o poi sprofondi. Leo a New Next, so sicuro ne. Tu dangi un pretesto che devo mettere un rest. Far West, io stile d'un muna, la web tra sindaco e tu ven buna, e non per nuda, che siamo du sud, quando uno du nord, che sa te, non è votata per la web, pur ci do sto bordello, se ci vuole Vietnam, in dalla notte, boom, just cheese, boom, ha scoppiato una web, non sanno aperte nel show. Ma la storia è che se facciamo sex, io facciamo sem, ma da me di che ho stress, grazie. Io ho problema du sud, ma ci voglio de stesso, non gangi nuda. Semi seri, qui non sorseggia Don Perry, ma Chuck Berry, ascolta John Berry, Don Cherry. Mossi così colà, il cielo sa perché poi qua non si decise da un'antichità di far rap. Stop and go, brate shot, sacchi attack, che si è dart, la matta delle quattro quart, trick e track, terrorista parte, da Sivan tu non hai, yeah. 4 5 numero mi, da Barry XC, torto G, if you know what I mean. Se ti confondi, prima o poi sprofondi. Se ti confondi, prima o poi sprofondi. Sospiro aria che mi frantumi sensi, personaggi che con questa sai si sono spenti, venti che lenti si appoggeranno in faccia cercando di capire sai qual è la cosa giusta. Sospiro aria che mi frantumi sensi, personaggi che con questa sai si sono spenti, venti che lenti si appoggeranno in faccia cercando di capire sai qual è la cosa giusta. Gusta ogni attimo di questa esistenza, gusta e nel frattempo fra devi aver pazienza, che ogni cosa che fai se tu lo vorrai, anche se sbaglierai magari crescerai, andrai dove nessuno mai è andato prima. In testa sai ti girerà quella bobina che ti farà vedere dei film mai visti. Li vedi, li rivedi, ma tu non capisci. Insisti nel cercare di dare a tutto un senso, non ci arrivi con te stesso, è un patteggiamento, è l'evento che provoca una reazione. Questo elemento è un fattore di questa addizione, controindicazione a mo' di medicina. Mi sa che con il tempo stai perdendo l'autostima. Mi ma se non hai voglia di parlare, io anche se so male, sai che qualche cosa devo dire. Se ti confondi, se ti confondi, se ti confondi, se ti confondi, Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.